Disco Dallas senza mana. Il primo disco della settimana del 2020, secondo me, Mauro, deve essere carico, quindi partiamo e scegliamo qualcosa che sia proprio a effetto. Allora, ci pigliamo una band italiana che faccia un genere musicale molto molto carico, molto energico, potente, okay, sì. Tipo chitarre distorte, batterie che tutto fanno venire proprio voglia di ballare, di muovere le chiappe. Sì, perché poi nel 2020 uno dei miei buoni propositi è ascoltare della musica che mi faccia proprio scaricare, no? Cioè che vai, balli ed esci che dici, madonna, non c'ho più energie, guarda. Mi è venuta in mente una band, aspetta, e vediamo se tu te la ricordi. L'abbiamo sentita ben due volte. La prima quest'estate a un festival meraviglioso di cui abbiamo parlato e parleremo di nuovo, che è la festa di Radio Onda d'Urto. A Brescia, sì, me li ricordo. Esatto, sotto un tendone che li abbiamo guardati e mi ha detto, ma sti qua dove saltano fuori? Poi, poco tempo fa, hanno suonato a Bologna. Ah, me lo ricordo, siamo andati al Covo. Sì, bravo. Il 20 dicembre, insomma l'anno scorso, ma pochi giorni fa. E c'era questa band di ragazzini, poi, perché sono giovanissimi, super carichi, super energici, ci sono piaciuti un botto proprio. Beh, direi che a questo punto abbiamo già deciso di chi parlare. Direi che vi parliamo, come primo disco della settimana del 2020, dei Freeze. Ricordiamo però che non è un album appena uscito, ma secondo noi vi piacerà sicuramente. Allora, è un album che è uscito nel 2019, quindi è datato lo scorso anno sostanzialmente, per la precisione il 4 ottobre. È il primo album di questa band, perché prima di questo, nel 2017, avevano fatto uscire un EP, poi ve lo racconteremo un po' meglio. Appunto, quest'album contiene diverse tracce, dopo vi diremo anche quali, e una è meravigliosa. Io inizierei con questa. Tra l'altro è uno dei singoli estratti appunto da quest'album, primo vero album dei Freeze. La canzone si chiama Guess You Are Bipolar. Scusa. E questo singolo è estratto dall'album dei Freeze che si chiama Always Friends. Direi che adesso ve lo facciamo ascoltare, poi ci dite cosa ne pensate. Yeah. eccoci qua, dopo Guess You're Bipolar, continuiamo a parlarvi un po' di questi Freeze. Abbiamo detto che sono giovanissimi e sono al loro primo album. Esatto, ora vi ricordiamo che quest'album è uscito il 4 ottobre, quindi non andate a cercarlo come ultima uscita perché sono già 2 mesi che è in circolazione, ma è un album che va scoperto. La traccia che abbiamo ascoltato è la numero 5 su 10 tracce che compongono Always Friends. Allora, quest'album, abbiamo detto, è stato il primo album dei Freeze, ma è molto carino perché loro spiegano che è stato scritto da Michele Bellinaso nella sua cameretta. Bellissimo. E successivamente registrato con i suoi amichetti Nicolò e Stefano al Fox Studio di Venezia. Allora, la cosa che a noi piace molto è che come sonorità uno non direbbe mai che questa band è una band italiana, e invece sì. Sono dei ragazzi della provincia vicentina. In mezzo alla nebbia loro hanno tirato fuori questo garage punk bellissimo a nostro avviso. Esatto, e infatti quindi Michele assieme a Nicolò e Stefano sono andati al Fox Studio di Venezia e hanno registrato assieme ad Andrea Volpato, che è sia membro che produttore dei New Candies, questo album. Direi che ascoltandolo si possono distinguere 2 stati d'animo, perché ci sono appunto 10 tracce che raccontano diverse storie. C'è uno stato d'animo un pochino più felice, un pochino più allegro, che è caratterizzato un po' da ritornelli un po' urlati, un po' smielati, così. Temi adolescenziali, storie d'amore, ma sono poi giovani sti ragazzi, eh? Sì, e dall'altra parte quello un po' più sentimentale, alimentato da distorsioni più decise, un po' più grezze, che accompagnano la natura un po' più triste e malinconica di quest'altra parte del disco, che è basata su storie di amici, Always Friends, che lasciano la città natale per andare all'estero, lasciano quindi Schio nel Vicentino e se ne vanno. Ed è legato un po' anche al bisogno di avere qualcuno al proprio fianco e capire cosa fare della propria vita una volta finita al liceo, perché ricordiamo che c'hanno intorno ai 20 anni sti ragazzi qua e fanno paura per come suonano. Sono veramente super bravi, quindi proprio loro hanno messo all'interno di questo primo album la loro autobiografia in un qualche modo. È finito un periodo, se ne inizia un altro, e cosa si fa? Si canta, e se non lo si racconta. E proprio per questo allora io continuerei a scoprire Always Friends, che ricordiamo è il primo album dei Freeze. E che canzone ascoltiamo, Mauro? Beh, potremmo ascoltare Always Friends. Ma sì, dai, ascoltiamo la title track. Questa sera Always Friends, la title track di Always Friends, l'album che vi stiamo presentando oggi, che è il primo album dei Freeze. Ma non è proprio il primo lavoro dei Freeze, infatti quest'album, che vi ricordiamo è uscito il 4 ottobre, è stato anticipato nel 2017 da un EP, perché loro sono giovanissimi, ma intanto che stavano preparando, non so, il compito di fisica, queste cose qua, letteratura, quello che è, hanno deciso di mettersi lì, secondo me veramente in una cameretta o in uno sgabuzzo, non so, a registrare il loro primo EP. Questo primo EP si chiama Routine ed è uscito appunto nel 2017 ed è stato pubblicato dall'etichetta Fat Cat Records, se non sbaglio. Esatto, che è una label inglese, quindi insomma sono stati notati subito anche all'estero. E Routine è un inno un po' per l'erba cattiva, il fare niente, le streghe, essere tristi e essere innamorati. C'è dentro un po' di tutto in queste 5 tracce del primo EP del 2017. La prima canzone estratta, il primo singolo, si chiamava proprio Bad Weed, che è stato appunto rilasciato dalla Fat Cat Records e ha avuto nei primi 10 giorni di uscita più di 10.000 visualizzazioni. Allora a sto punto, Mauro, ci toccherà di ascoltare Bad Weed. Tra l'altro io vi consiglierei di andare a cercare questo EP Routine uscito nel 2017 anche solo per vedere la copertina, cioè perché c'erano già dei sentori d'oltreoceano, cose così, perché c'è una copertina bellissima di un disco volante che aspira una mucca in un campo, in un, diciamo, in una fattoria. È molto molto carino. E come sappiamo queste cose succedono solo negli Stati Uniti. Succedono tutti i giorni. Rapiscono le mucche solo negli Stati Uniti. Ma in realtà questo per dire che hanno proprio delle sonorità assolutamente non italiane e anche poco europee, secondo me. Sembra che siano cresciuti decisamente nella costa californiana, non so se sei d'accordo con me. Assolutamente sì. Beh, vediamo allora, se anche voi siete d'accordo con noi, vi facciamo ascoltare Bad Weed e ritorniamo parlando un pochino delle date in cui ascoltarli. We build up. dopo Bad Weed, che ci ha fatto fare un salto indietro fino al 2017, che ormai sono un sacco di anni fa, ho perso il conto. Beh, siamo nel 2020, okay. Ed è il primo disco della settimana del 2020, quindi. Torniamo al 2019, l'anno dell'uscita di Always Friends, per tornare a parlare appunto dell'album dei Freeze, uscito il 4 ottobre. Quando questo album è uscito, in realtà i Freeze erano già in giro con il loro tour, un tour che appunto era pronto a presentare le 10 tracce contenute in quest'album. Però in realtà è molto interessante che al loro primo album sono partiti a bomba e il tour sta toccando un sacco di paesi, ovviamente non solo italiani. Proprio per questo le prossime date, per ascoltarli dovete prendere un aereo. Dovete assolutamente prendere un aereo, perché suoneranno tra pochissimi giorni live in London al The Waiting Room il 13 gennaio. Il 15 se ne andranno invece in Francia al Supersonic con tre altre band che scopriremo. Il 18 saranno a Manchester, di nuovo nel Regno Unito, e poi chissà, sarà il caso di tornare in Italia e farci risentire le loro canzoni. Allora, noi, per farvi venire ancora più voglia di ascoltarli dal vivo, adesso ascolteremo un ultimo pezzo estratto da Always Friends, che ricordiamo è il nostro disco della settimana del 2020, il primo disco della settimana del 2020, uscito il 4 ottobre. E a questo punto state all'occhio, seguite sui social questa band che è Freeze Band, con solo due E, perché c'è un'altra band che si chiama Freeze ma ne ha tre, e quindi attenzione a non confonderli, e state attenti alle prossime date, secondo noi vi piaceranno.